buono, un po' di profumo senza esagerare. L'altoparlante chiama un tale, il suo aereo sta per partire. È arrivata la mia donna da oltre il mare. Chissà se il suo sorriso è come in quelle foto, sempre in ombra a coprire quel viso dolce. Quello che le ho mandato ha comprato il biglietto e io avrò un bacio e una vita che non avrei più sognato. La porterò a vedere il sole, la porterò a toccare il mare, al bar con gli amici, a tutte le sagre, la porterò sulla tomba di mia madre. Le porte scorrono fra baci e sorrisi, c'è chi passa, si abbraccia e chi si allaccia alla giacca. L'adrenalina sale e il mio cuore sta per scoppiare. La mia donna è arrivata da oltre il mare. Le piacerò come mi scriveva. Non so se funzionerà, ma si spera. So che le darò il mio respiro, il mio sole, per lei riderò. È l'ultima occasione che ho. La porterò a vedere il sole, la porterò a toccare il mare, al bar con gli amici, a tutte le sagre, la porterò sulla tomba di mia madre. La porta.